Fuori la lingua, la stagione 2016-2017 del Sì, per noi è la risposta a un desiderio di riflettere sul linguaggio come strumento di relazione. Da una parte il linguaggio politico come strumento principe di costruzione di una realtà condivisa e quindi lavoreremo con una serie di spettacoli che mettono in scena la retorica politica, dal discorso di Barack Obama quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace, ai discorsi della Black Panther Party, ai discorsi dei leader politici italiani nel progetto Discorso Grigio di Fanny Alexander. D'altra parte, fuori la lingua per noi è anche mettere in campo una serie di gesti, di accoglienze, di collaborazioni e coprogettazioni con altri soggetti della città. Fuori la lingua in un gesto tattile, gustativo, quasi erotico, con altre realtà che insieme a noi presenteranno all'interno del Sì alcuni elementi specifici del loro programma. Bibble Bull presenterà uno spettacolo tratto dagli scarabocchi di Megole e Mirko. Genderbender presenterà una serie di suoi artisti all'interno del Sì e creerà all'interno del Sì quello spazio di relazione nel quale il pubblico incontra gli artisti che ha visto in scena. Fuori la lingua risponde a un desiderio che abbiamo di entrare in relazione con la comunità di artisti, ma anche di cittadini e di persone che per la prima volta si relazionano col mondo delle performing art e del teatro, e per mettere in condivisione alcune basi del linguaggio che poi interagiscono in maniera forte con noi, tanto poi da determinare la direzione che prendono le nostre vite.